coppia. Miti e verità dello sport. Di Dario Ricci. Donna meravigliosa, sei donna pericolosa. Cerchi e poi ti perdi a così. Ti mette a segno questa stoccata, sarà campionessa olimpica, conquisterà la medaglia d'oro. Vedremo chi la mette a segno. Elisa Di Francisca, medaglia d'oro del fioretto individuale femminile. Elisa Di Francisca mette a segno il punto decisivo, recupera Arianna Enrico. Questa medaglia d'oro la vince Elisa Di Francisca alla sua prima Olimpiade. Un salto di Elisa Di Francisca tra le braccia di Stefano Cerioni e il fioretto che conquista tutti i gradini del podio. Medaglia d'oro per Elisa Di Francisca, medaglia d'argento per Arianna Enrico, medaglia di bronzo per Valentina Vezzali. Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella ed è la notte la mia stella. Regina di cuori, ma anche regina di spade, di fioretto per la precisione, l'ospite odierno di Olimpia, perché tra poco parleremo con una campionessa che sulle pedane di tutto il mondo, stiamo parlando chiaramente di scherma, ha vinto ogni medaglia possibile e adesso è impegnata in un'altra sfida, che sfida non è, perché è tutt'altro cammino che nella vita di una donna, ma direi di una famiglia, inizia, ed è un percorso fatto di tante e splendide tappe. Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive all'Università Cattolica di Milano. Ben ritrovato, professore. Grazie, grazie Dario, e un ben ritrovati a tutti i radioascoltatori. Preparazione atletica e mental training, direi che la scherma sublima entrambe queste caratteristiche. Quando nell'arco di un piccolo attimo frangente bisogna decidere che tipo di azione mettere in atto, sicuramente mente e corpo in quel momento lavorano in totale sincronismo, e la differenza tra una mente veloce allenata e una mente meno allenata si percepisce, si evidenzia proprio nella vittoria o in una sconfitta. E allora, sicuramente veloce di testa, ma anche di gambe e di fioretto, è Elisa Di Francisca. Ben ritrovata qui a Olimpia, la città dello sport, Elisa. Ciao, buonasera a tutti. Elisa, da qualche mese la tua vita è cambiata radicalmente. Basta fioretto e pedane, almeno per ora, e via con pannolini e biberon, perché è arrivato Ettore, primogenito avuto insieme al tuo compagno Ivan Villa. Bella rivoluzione, eh? Sì, è un momento magnifico, un momento pieno di emozioni, ogni giorno è un'emozione diversa, e non lo so, non lo paragonerei a niente. E rispetto alle pur grandi emozioni che hai vissuto nella tua carriera? No, è tutta un'altra cosa, a livello sportivo sei come dicevi esposto a tanti carichi nervosi, no? A tante emozioni, però non fai in tempo a provare un'emozione che poi dopo ti devi rimettere a lavorare per raggiungerne un'altra, no? Di emozione, mentre qua hai il tempo di, che ne so, di... Io la mattina mi sveglio, lo vedo, che mi sorride, cioè mi metto a piangere e non mi vergogno di mettermi a piangere, mi metto a piangere senza maschera, questa è la cosa più importante. Si sa che la maternità è per voi atlete un momento ancor più particolare, stretto fra impegni agonistici e legittimo desiderio di metter su famiglia. C'è chi, e mi viene in mente ad esempio proprio Valentina Vezzali, ha deciso di ritornare subito in pedana, tra l'altro vincendo immediatamente, e chi invece ha scelto una pausa più ampia e definita come te. Ecco, penso di aver scelto il momento giusto. Ma assolutamente sì, no, non mi ha ordinato nessuno di fare un bambino, l'ho fatto in un momento in cui mi andava di mettere al mondo una creatura che poi ho visto che è meravigliosa, è stupenda e sana se non altro, e che sta bene, la quale voglio allattare almeno fino al sesto mese. Nessuna programmazione troppo stringente dunque? Guarda, no, assolutamente no, perché comunque al di là delle atlete tante persone lo programmano, cioè aspettano la persona giusta, aspettano che siano almeno un minimo realizzate a livello lavorativo, e quindi no, la maternità è l'unica cosa. Guarda, io quando ero incinta lo adoravo perché era imprevedibile. gli ultimi tempi, gli ultimi mesi, soprattutto il nono mese, non si sapeva, io mi sentivo come quando dovevo affrontare una gara importante, però nessuno mi diceva qual era il giorno, quindi quel fatto di non sapere quando sarebbe stata la gara, quindi quando sarebbe nato Ettore, a me impauriva, ma allo stesso tempo mi piaceva perché comunque è una di quelle cose, grazie a Dio, che non possiamo controllare noi esseri umani. A noi esseri umani ci piace controllare le cose, diciamo. Dai. Mi sembra del resto che tu abbia vissuto con grande serenità proprio i mesi della gravidanza. Sì, è stato stupendo, è stato bello. Poi io non, devo dire, non mi sono mai fermata, nel senso che ho fatto piscina, pilates, lunghe camminate, diciamo che ho fatto un po' quello che avevo bisogno di fare dopo Rio, riposarmi, pensare a me, pensare a costruire questa famiglia, al mio compagno, a mangiare, perché no, a concedermi anche qualche cosina in più, qualche addormitina in più, perché poi c'è da dire che quando sei impegnato per gare, cose sempre di corsa, ti alleni, non hai tutto questo gran tempo e non puoi neanche, no, mangiare chissà quanto. Io, ricordiamoci, ho preso 16 kg per questa gravidanza, perché non mi sembrava vero, Dario, io mangiavo come se non ci fosse un domani. Fortunatamente, senza che nessuno potesse in qualche modo ostacolarti più di tanto, dai. No. Dopo un po' mi sono fermata, però, Certo. Un po' non c'avevo più fame, era quello. Grazie a Dio, mi sono scoppiata, ecco. L'arrivo di Ettore davvero ha cambiato proprio la tua quotidianità. Guarda, per me, come per tutto, Dario, io non so se è una congiura, funziona sempre tutto al contrario. Nel senso che io mi sono sempre dedicata solo alla scherma, non avevo nient'altro, ho qualche hobby, ok, però pensavo solo a quello. A Iesi stavo lì, avevo la palestra vicino e mia madre che insomma mi aiutava con il pranzo, con la cena a volte, no? Con la spesa, con quello che era. E neanche, ecco, per dire, mi cucinavo l'indispensabile, cioè pensavo solo alla scherma. E è andata bene fino a Rio. Ora ho delle cose importanti che però fanno parte di una persona diversa. Ecco, io sono molto cambiata da quando sono, non è tanto da quando sono diventata madre, ma ancora da prima, da quando mi sono innamorata. Sono diventata donna, no? A tutti gli effetti, mi sento completa, mi sento molto più forte. Sento le tue risate, ma anche il tono della tua voce, e intuisco che per quella che fino ad oggi è stata la tua vita c'è grande amore, ma non troppa nostalgia. No, c'è la voglia, mi manca, allora, innanzitutto mi manca proprio lo sport, mi manca l'adrenalina, l'allenarmi proprio provando fatica, andare oltre i limiti, ecco, questo mi manca da morire. E poi no, voglio rimettermi la maschera un'ultima volta, può voler dire da qui a Tokyo, può voler dire da qui a tutte le volte che perderò con tutte le ragazzine che mi affronteranno, però voglio rimettermela per capire se c'è l'adrenalina, se c'è la voglia, se mi piace ancora, se sento ancora quella musica stupenda che sentivo proprio fino a Rio. Intanto la scherma azzurra va avanti. Benissimo, sta andando benissimo, io ho seguito i mondiali, gli ultimi mondiali a Lipsia, che si sono svolti proprio nel periodo in cui dovevo partorire, quindi li ho seguiti proprio comoda, tranquilla. I popcorn non ce l'avevo perché non mi sembrava il caso di infierire, però comunque ho guardato tutta quanta la gara e ho visto che c'è ricambio, ci sono ragazze tipo Camilla Mancini, tipo Alice Volpi, tipo Daniele Garozzo, va bene che ha vinto l'oro a Rio, ma si è riconfermato ed è molto più difficile riconfermarsi, no? La scherma italiana c'è, è sempre forte e questa è una cosa che fa piacere. Paura di non essere più all'altezza al momento del ritorno. Bravo, è che ti ho detto prima, c'è anche quel rischio, assolutamente, ma guarda, lo accetterei volentieri nel caso, perché comunque io ho vissuto anche l'altra parte, no? La parte in cui ero giovane e avevo davanti quei colossi, che per colossi intendo la grande Giovanna Trillini e Valentina Vezzali. E dicevamo noi parlando, ma quando è che queste smettono, no? Voglio dire, entrambe sono arrivate a 42 anni e dico ma non si sono stancate con una famiglia, con tutto il resto, e quindi arriverà il momento pure per me, no? Come giusto che sia. E allora con Elisa Di Francesca non è che si parla solo di sport e maternità, ma si fanno anche tante risate come stiamo scoprendo. Professor Tirelli, prendiamoci allora un attimo di pausa, poi di nuovo qui a Olimpia, la città dello sport, con una delle più grandi campionesse della nostra scherma, Elisa Di Francesca. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Olimpia, miti e verità dello sport. Referee, start the fight. Hangout, fight, ale. Quasi tre secondi per una stoccata. Parte Elisa Di Francesca, niente da fare, non va, non ce l'ha fatta, per una stoccata dunque si impone in Deriglazova 12-11 su Elisa Di Francesca ed è la nuova campionessa olimpica, proprio va a togliere l'alloro olimpico a Elisa Di Francesca che l'aveva conquistato a Londra, un passaggio di consegne e adesso in Deriglazova. Ancora insieme qui a Olimpia, la città dello sport, con una campionessa d'eccezione che con il suo fioretto in mano sulle pedane di tutto il mondo ha vinto ogni cosa possibile. Elisa Di Francesca, ben ritrovata. Buonasera a tutti. Elisa, rimpianti per quell'argento di Rio che davvero per pochissimo non è ridiventato oro? Guarda, no, non c'è nessun rimpianto. Io sono stata felicissima dal primo momento perché quel giorno ero di un nervoso e di un carico inimmaginabile. Avevo sulle spalle il peso della responsabilità di dovermi riconfermare. Il mio peso, ti parlo, non delle altre persone. Fin da subito dicevo no, ho vinto quell'Olimpiade, quindi devo rivincerla, sono ancora forte con lei, con questa avversaria sono già vinto, con quest'altra pure, quindi c'avevo un peso enorme. Non sono riuscita purtroppo a fare la mia scherma e alla fine ho avuto un blackout con la Deriglazova, mi sono spenta completamente. Quando mi sono svegliata, il massimo che sono riuscita a mettere sono state quelle stoccate, di più non ce n'avevo, ho sparato tutti i colpi che c'avevo. Senti, scherziamo ancora insieme. Invece la vittoria ballando con le stelle, che posto ha nel tuo palmarès? Vabbè, quella è stata un'esperienza bellissima, importantissima, anche perché Dario, io non so se lo sai, ho iniziato con la danza classica perché mia madre mi voleva ballerina mentre mio padre mi voleva schermitrice, quindi piano piano ho contentato tutte e due. Diciamo che ecco, per fortuna hai scelto anche nell'ordine giusto, ecco. Comunque, questo ricollegandomi a prima, nel caso in cui perdessi con tutte le ragazzine, ci sono sempre le balere, io mi posso mettere a ballare, che ne so, la polca nella balera, no? Mi prenderanno, mi faranno entrare, che dici? Assolutamente, anzi dimmi dove vai che vengo pure io. Andiamo, dai. Ci facciamo compagnia. Brutte immagini. Ma Tokyo 2020 ci sarai? Ti rivedremo a gareggiare per un podio olimpico? Beh, allora, io ti dico la verità, ho già iniziato il corso di cucina, sto imparando a fare il sushi, ecco. Una volta imparato a fare il sushi, magari posso anche pensare di andare a Tokyo, ecco, magari. Proprio un lavoro di fino, ecco, dal sushi a tutto quanto. Ok, ma lo tagli col fioretto? Con la katana. Elisa Di Francesca, grazie per le tante risate e per essere stata stasera ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, grazie a te. Ciao Dani. Professor Tirelli, davvero emozionante ritrovare Elisa Di Francesca dalla pedana di Rio de Janeiro 2016, da quell'argento in un percorso del tutto nuovo, la maternità. Ecco, sicuramente la maternità è un percorso ulteriore, una sfida ulteriore che un atleta donna va ad affrontare rispetto agli uomini. Infatti parliamo spesso del sesso forte, che sarebbe quello maschile. In realtà io penso che in ambito sportivo la mente più forte generalmente è espressa dal sesso femminile, proprio perché le sfide a cui le donne devono generalmente far fronte nell'ambito di una carriera ad altissimi livelli o a medi livelli sono sia agonistico-sportive, ma anche sfide che riguardano la propria intimità, la propria essenza proprio di femminilità che in medicina cinese si chiamerebbe l'essenza yin, a dispetto di quella maschile che sarebbe yang, ma in questo caso ci sono delle situazioni che hanno a che fare sia con la maternità, ma anche casi che riguardano per esempio i bioritmi femminili, che sicuramente in ambito di ciclo ormonale possono modificare o meno delle performance. Mi fa venire in mente, professore, quanto ha detto ad esempio Federica Pellegrini un po' dopo l'amaro quarto posto di Rio 2016, in cui aveva detto: beh, probabilmente anche l'aver avuto nei giorni della competizione il mio ciclo mestruale può aver in qualche modo condizionato la mia performance. A lei è capitato nella sua carriera di dover gestire su atlete situazioni, immagino, altrettanto complesse? Sì, ricordo per esempio in una finale importante in un campionato di alto livello di basket, quando il capitano di questa squadra femminile, proprio a pochi giorni dall'evento, presentava dei sintomi chiaramente abbastanza, come dire, difficili da gestire. In particolar modo proprio in quel momento il ciclo ormonale del mese presentava un pochino anche non solo di problematiche a livello di minor forza fisica, ma minor capacità di forza esplosiva, ma anche in quel caso addirittura di leggera tendenza alla malinconia, cosa che chiaramente veniva attenuata dal fatto che c'era un sistema adrenergico ormonale pre-performance che andava un pochino a compensare il tutto. Ma mi chiese proprio di poter essere aiutata a trovare quelle motivazioni importanti per aumentare la forza mentale. In quel caso come si interviene? In quel caso il riconoscimento dei limiti del momento vengono trasformati in una opportunità di modulazione di altra modalità di performance fisica. Faccio un esempio. In quel momento era molto più malinconica e riflessiva. Ho chiesto a lei di usare questa capacità riflessiva per poter trasmettere, in casi eventuali di tensione durante la partita e forse anche in casi di perdita di lucidità di alcune delle compagne, la capacità di riportare al centro quello che era l'obiettivo, e quindi una sorta di utilizzo della calma indotta a livello ormonale in una calma che poteva essere indotta invece per le sue compagne come sicurezza, comfort zone, quando abbiamo proprio quei momenti in cui dobbiamo assolutamente ritrovarci dentro. Altro elemento importante che ha sottolineato Elisa Di Francisca è la scelta del momento giusto della maternità. Sì, in effetti ci sono generalmente due tipi di attitudini. L'atleta, la donna che decide, programma quasi fino all'ultimo giorno il fatto di mantenere lo stato di maternità fino al punto in cui nascerà il bambino, e quelle che invece si trovano improvvisamente anche a volte a dover affrontare una situazione che non era programmata. Nel primo caso io parlo di atleti che ho conosciuto, e sono atlete molto young, in realtà molto maschili, programmatiche, razionali, e che riescono in qualche modo ad ottimizzare la qualità del loro apporto materno a discapito della quantità del tempo che devono dedicare al proprio figlio. E sono quelle che generalmente tornano subito, dopo pochi mesi, all'attività agonistica. La Vezzali, per esempio, no? Si parlava proprio in questa intervista di persone che hanno questa capacità molto, qualcuno la definirebbe molto fredda, in realtà no, è la tipologia della persona. Altre che invece riescono a fare una scelta drastica quasi, cioè dire: adesso do spazio alla condivisione, all'esperienza di questo momento unico, irripetibile, magico. E per esempio mi viene in mente un'allenatrice di basket che faceva con me questo lavoro di mental training e che si trovò a dover abbandonare a metà stagione un progetto molto importante con la propria squadra, che in quel momento era in testa alla classifica. Poi questa squadra addirittura vinse il campionato di basket, e direi che fu una scelta molto sofferta, sinceramente, ma che poi nell'atto, nel momento di essere, diventare madre, ha espresso, diciamo, felicità tale da poter dire da parte sua che è stata la più bella scelta della sua vita. come ci faceva intendere Elisa, ci sarà anche un momento della ripartenza, no? Dopo questo momento così importante e così bello. Quali sono le primissime cose su cui un mental coach va a lavorare per ricreare motivazioni, voglia? Da prima della maternità c'è un momento di individualità che pone il campo, l'allenamento, la programmazione atletica come primo elemento. Quando poi la donna si trova a dover gestire questa situazione, a quel punto interveniamo, o perlomeno questo è il mio lavoro, cercando di dare unicità ai due elementi, ossia consapevolezza del fatto che quello che sta facendo oggi come allenatrice, come atleta, non è più solo finalizzata alla propria soddisfazione, alla propria motivazione, ma avrà un'energia in più, un elemento in più, che è quello proprio di dedicare, se vogliamo, una parte del valore, del premio, del titolo o dell'ambizione stessa anche per il proprio figlio. Quindi in questo caso diventa una formula di unione di due elementi, non più, se vuoi, antagonisti, come può essere vista quella alla maternità nello sport, ma arricchente, proprio perché ci dà una forza unica, da quanto ovviamente ci dicono le donne, che altri elementi non potrebbero dare. E allora, professore, vedo già in lontananza altri campioni dello sport che stanno per bussare alle porte di Olimpia, la città dello sport, dopo questo ulteriore bellissimo viaggio che abbiamo fatto questa sera in compagnia di Elisa Di Francisca. E allora la ringrazio, professor Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Cattolica di Milano. Ci rivediamo domenica prossima, domenica sera, sempre alle 21 qui a Olimpia. Sempre, molto volentieri, e sempre per tutti i nostri ascoltatori, grande forza mentale. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.